Intanto una prima novità, noi abbiamo il dato del secondo trimestre che abbiamo superato la barriera dei 2 milioni di occupati. Nel 2020 eravamo scesi a 1 milione 900 e svaien, oggi siamo sopra i 2 milioni e quindi abbiamo un fatto molto importante e abbiamo più persone che cercano occupazione. Bisogna essere onesti, mancano ancora 44 mila occupati rispetto al dato che abbiamo perso nel 2020, contiamo nel 2020 di andarli a prendere uno a uno per ritornare a dare una risposta a tutte queste persone. Il trend ci porta a dire che stiamo andando in quella direzione, abbiamo fatto in questo trimestre più di 50.000 unità lavorative, quindi un dato eccezionale, la ripresa c'è, la luce si vede in fondo al tunnel, va gestita. E un altro dato molto importante, la dinamica sulle donne, nel 2020 noi abbiamo preso una botta soprattutto di genere, mentre invece oggi siamo a una dinamica più 33% di donne. Abbiamo meno popolazione inattiva e più occupati. Guardate, siamo passati agli occupati le percentuali 69,3% in questo trimestre, a livello nazionale 58%, quindi noi abbiamo un dato sugli occupati che quota più del 10% rispetto alla media nazionale. La disoccupazione siamo al 5 decimali, in nazionale ancora 9,6 purtroppo, e però insomma questa regione dimostra ancora una volta di essere un freccia rossa lanciato dal punto di vista delle dinamiche manifatturiere e della capacità di creare lavoro, e quindi è un fatto molto importante. Stiamo viaggiando con un prodotto interno lordo del 6%. In questo contesto ovviamente la discussione dei centri per l'impiego non è uno slogan, la mission. Abbiamo deciso di consegnare il fatto che i centri per l'impiego devono essere centri per l'impiego di comunità. Sono visti come un fatto burocratico, non possono essere che i centri per l'impiego siano visti così. Per la comunità vuol dire che gli operatori devono tenere la relazione con tutti i soggetti firmatari del patto per il lavoro, patto per il clima. Bisogna fare analisi, dire la verità, dove sono i redditi di cittadinanza, dove sono le NASPI, quali sono i bisogni. La fotografia deve essere trasparente nei 9 distretti che abbiamo a livello regionale. Con oggi siamo anche in condizione di dirvi che andiamo a fare un potenziamento di qualità. Apriremo un bando per assumere 85 persone, operatori in contratto formazione lavoro, poi andremo a verificarli e a consolidarli, un fatto che ci porta ad avere, oggi abbiamo 720 operatori nei centri per l'impiego e con questi 85 arriviamo a 800. Noi stiamo facendo una qualificazione di tutti gli operatori. Le competenze per avere questo sistema integrato, tu devi avere delle competenze che valorizzano il lavoro pubblico, ma devi avere delle competenze. Stiamo facendo dei master con l'Università di Bologna, li andremo a replicare, ma stiamo facendo la formazione a tutti gli operatori. Questi centri per l'impiego gestiscono ovviamente le dinamiche degli ammortizzatori, certamente tutte le politiche passive, ma gestiscono anche tutte le politiche attive. L'intreccio tra domanda e offerta, quando sentite questo mismatch, io preferisco dire domanda e offerta, guardate che passano attraverso i centri per l'impiego. Noi faremo un investimento di 76 milioni di euro, un fatto inedito. E in quei 76 milioni di euro, prima di tutto, andremo a fare anche un'altra cosa molto importante. Andremo a qualificare le nostre sedi. Una sede pubblica di qualità con dentro la tecnologia, operatori, ovviamente poi le persone sono fondamentali, ma anche il luogo pubblico è molto importante. Andremo a fare le convenzioni per pari a 50 milioni di investimento in tutte le nostre 38 sedi, a partire dai centri per impiego più grandi, quelli che hanno più di 10.000 utenti. Abbiamo già fatto Modena, Bologna, Ravenna, e quindi entro il 31/12 faremo tutte le città capoluoghe, poi via via tutti, e lì investimenti, addirittura sedi nuove o ristrutturazione dell'esistente con dentro tecnologia, messa in sicurezza, capacità ovviamente di avere location nei luoghi anche di logistica più intelligente vicino alle stazioni. Ecco, è un'operazione in grande stile, e gli altri 26 milioni di euro ovviamente per potenziare questo organico, perché abbiamo bisogno del loro potenziamento. Noi dobbiamo sgonfiare la bolla del lavoro povero, anche in Emilia Romagna la dobbiamo sgonfiare dove c'è la precarietà. Ma il dato sono le ore lavorate. Le persone, in base alle ore lavorate, hanno un reddito dignitoso o sono nella fascia borderline della povertà. Quindi la precarietà sono le ore lavorate, la discontinuità. Questi sono gli indicatori che dobbiamo guardare, quindi prendere quelle persone e accompagnarle nelle competenze per fargli alzare il numero di ore lavorate. Andremo a prendere i net a uno a uno per dirgli: guarda che ti diamo un percorso, incrociamo domanda offerta, ti accogliamo noi, per toglierti dal fatto che non sei, non studi più, non lavori più e sei dentro la rassegnazione. Ecco, i centri per l'impiego non si possono permettere di vedere ragazzi e ragazze, e non solo, anche adulti, rassegnati.